Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È uno degli autori di romanzi storici più amati al mondo, è lo spagnolo Ildefonso Falcones, un avvocato di Barcellona che ormai da anni è diventato autore di bestseller. Il suo libro più famoso è La Cattedrale del Mare, 6 milioni di copie nel mondo e 700.000 solo in Italia. Ora è in libreria il seguito di quel romanzo, che si intitola Gli eredi della terra, pubblicato in Italia da Longanesi con la traduzione di Marco Amerighi, Roberta Bovaia, Daniela Ruggiu e Marcella Uberti Bona. Veniamo alla trama rapidamente. Siamo sempre a Barcellona nel XIV secolo e tutto gira ancora intorno alla cattedrale di Santa Maria del Mare. Arnau, che era stato il protagonista della cattedrale del mare, all'epoca era un ragazzino, poi l'avevamo insomma visto affrontare diverse peripezie, in questo sequel è ormai insomma adulto, quasi vecchio possiamo dire, ed è un notabile molto rispettato. Ed è lui che decide di aiutare un ragazzino di 14 anni in difficoltà, Ugo, un po' come era stato lui appunto anni prima. Ma come mai Falcones ha aspettato 10 anni per scrivere il seguito del suo romanzo più famoso? Sentiamolo. Bueno, tantos años porque en realidad yo tardo mucho en escribir, ¿no? Sono passati tanti anni perché io ho bisogno di tempo per scrivere. E diciamo che dopo La Cattedrale del Mare ho preferito scrivere romanzi ambientati in altre città, come La Mano di Fatima e poi La Regina Scalza. Quindi, considerando una media di 3 anni per scrivere un romanzo, per il quarto sono passati 10 anni. Pues la quarta ha coincidido con los 10 años. Beh, ci vogliono 3 anni per scrivere un romanzo per Ildefonso Falcones, perché c'è tanta ricerca storica, ma poi sono libri anche molto corposi, questo sono circa 900 pagine. Sì, effettivamente. Bueno, generalmente los libros o las novelas históricas. Sì, effettivamente. Generalmente i romanzi storici sono corposi, magari non sempre di 800 o 900 pagine, ma almeno di 600. E questo per un motivo. È necessario spiegare al lettore una serie di cose, cose che nei romanzi ambientati nell'epoca contemporanea non hanno bisogno di spiegazioni. Se dicessimo che un personaggio si muove da Milano a Barcellona in aereo, non c'è bisogno di spiegare nulla, perché tutti sappiamo come funziona. Ma se un personaggio avesse dovuto viaggiare da Milano a Barcellona nel Medioevo, c'è bisogno di una serie di spiegazioni da dare ai lettori per far capire come funzionavano le cose. E poi, effettivamente, prima della scrittura del romanzo, c'è un approfondito lavoro di documentazione. Io consulto almeno 200 libri, tesi dottorali, molte riviste e un'infinità di articoli. Quindi, fra la fase di documentazione, quella di redazione, la correzione e l'editing, passano 3 anni. Entre che passa l'editing, entre che l'editoriale lo pubblica, sì, viene a essere 3 anni, sì. Quando leggo un romanzo storico come i tuoi, insomma, Ildefonso Falcones è un punto di riferimento in questo campo, ho sempre il dubbio cosa è vero, cosa è inventato, quali sono i personaggi di fantasia, qual è il contesto storico, invece quali sono i fatti reali. E mi diverto insomma a fare un po' questo gioco, magari poi cerco su Google se sono esistiti veramente determinati personaggi o se dei fatti raccontati nei romanzi corrispondono alla realtà. C'è sempre nel romanzo storico la necessità per il lettore di fare un po' la tara fra quello che è vero e quello che è inventato. In questo caso, che cosa ci puoi dire? Quanto è inventato e quanto corrisponde a realtà? Todos los hechos históricos que se cuentan en la novela son reales y están sustentados en estudios serios. Tutti i fatti storici narrati nel romanzo sono reali e dimostrati da studi seri. Il lettore può essere sicuro che i fatti sono veri, ovviamente a prescindere dall'interpretazione degli stessi fatti, che è di per sé soggettiva. Mi riferisco per esempio ai provvedimenti contro gli ebrei, allo scisma della Chiesa, alla distruzione del quartiere ebraico di Barcellona, che sono narrati in questo romanzo e che riflettono fedelmente la realtà. A questa realtà dei fatti intreccio la parte di finzione. Credo che i personaggi di fantasia siano ben identificabili nei miei romanzi, perché sono sempre personaggi umili, non sono mai nobili o regnanti che hanno potuto intervenire nella storia con le loro azioni. Credo che il lettore possa identificare perfettamente quali sono i personaggi storici e quelli inventati. I personaggi di fantasia si intrecciano con la realtà storica e questa è la cosa più difficile da fare nella scrittura del romanzo. Nel mio caso, il lettore può essere sicuro, salvo errori che possono sempre capitare, che i fatti storici che racconto nei miei romanzi sono reali. puede haber algún error, como siempre, pero de que todos los hechos históricos que se narran en mis novelas son reales. Caratteristica appunto dei romanzi storici di D'Alfonso Falcones è che i protagonisti appunto sono personaggi umili, persone normali che intrecciano i grandi fatti della storia. Nella Cattedrale del Mare avevamo Arnau, che era un ragazzino che aveva poi, era cresciuto, aveva contribuito moltissimo alla costruzione di questa cattedrale. In questo sequel, Gli Eredi della Terra, lo vediamo grande, cresciuto, è diventato una delle persone più importanti anche di Barcellona ed è a capo di un'istituzione benefica della stessa cattedrale. Stavolta è lui che deve prendersi cura di un giovane. C'è un po', come dire, quasi una nemesi, cioè che stavolta è lui a doversi prendere cura di un ragazzo, di un adolescente che si chiama Ugo. In che modo cerca di aiutarlo? Bueno, Arnau efectivamente lo dejamos en la Catedral del Mar ya mayor y empieza esta novela pues con una edad que en la Edad Media pues era longeva, podríamos decir, ¿no? Arnau efectivamente lo vediamo alla fine della Cattedrale del Mare, che era già avanti con l'età, era un vecchio. Nel nuovo romanzo, Arnau gestisce il piatto dei poveri presso la Cattedrale di Santa Maria del Mare, piatto che ha l'obiettivo di aiutare i bisognosi. Fra questi c'è Ugo, vero protagonista di Gli Eredi della Terra. È un orfano ed era figlio di un marinaio. In che modo Arnau lo aiuta? All'epoca il massimo aiuto era procurare un lavoro, altrimenti c'era il forte rischio di cadere nella miseria, diventare un mendicante. Per Ugo, Arnau trova un lavoro negli arsenali di Barcellona, mentre la sorella di Ugo viene sistemata in un convento come cameriera di una suora, unica possibilità per un'orfana all'epoca. È così che inizia il legame fra Arnau e Ugo, ma Arnau esce presto di scena e Ugo regge tutto il peso del romanzo. Evidentemente il che llevará tutto il peso della novela. Il romanzo infatti si concentra su Ugo e vediamo anche poi che cambierà il lavoro nel corso insomma delle pagine del romanzo. C'è tutto un focus sulle vigne, sul produrre il vino in Catalogna, tant'è vero che nella nota finale tu stesso hai fatto dei riferimenti storici precisi, cioè hai ricordato come in Catalogna non si usasse magari fare invecchiare il vino, perché ricordiamo che poi c'è stato l'Islam, la dominazione musulmana, e quindi in quel caso l'alcol era stato messo da parte. Ecco, che ritratto dai della Catalogna del 1400 e perché hai voluto così accendere un focus su questo aspetto particolare? Bueno, el centrarme en el vino tiene varias razones. Una, primero, que a mí me gusta mucho, ¿no? Beh, concentrarmi sul vino ha varie ragioni. La prima è che a me piace tantissimo il vino e penso di non essere il solo. Credo ci sia un crescente interesse, una crescente cultura da parte di tutti. Le persone hanno imparato ad apprezzarlo, a conoscerlo meglio. In secondo luogo, all'epoca il vino non era qualcosa che si doveva imparare ad apprezzare, ma era un bene di prima necessità. Si beveva molto più vino rispetto ad oggi perché a volte l'acqua poteva essere infetta. Il vino veniva utilizzato per i bambini, per i malati, veniva dato ai soldati e quindi le città proteggevano la produzione locale del vino. Era un bene per tutta la popolazione. E infine c'è un'altra ragione. Siamo ancora in epoca medievale. Al tempo il turismo non esisteva. Gli unici che viaggiavano erano i pellegrini o i mercanti. Era pericoloso oltretutto muoversi. Quindi avevo bisogno di un mercante, di uno che aveva bisogno di viaggiare nelle zone che volevo descrivere nel romanzo e che al contempo mi permettesse di parlare dell'amore per la terra, per i vigneti e per il vino. Ese trabajo, esa labor y ese, sobre todo ese amor por la tierra, por las viñas y por el vino. Dalla Cattedrale del Mare viene tratta ora una miniserie televisiva che stanno appunto girando in Spagna. Come un romanzo storico, anche così complesso, con degli scenari particolari, eccetera, può essere trasformato in qualcosa di televisivo? Hai paura che venga stravolto? No, non tengo miedo, no, io credo che no. Io credo che no por varias razones. No, non credo. Credo di no per varie ragioni. Primo, perché non stiamo parlando di un film della durata di 2 ore, che dovrebbe cambiare tantissimo i contenuti per riassumere un romanzo di 800 pagine. In questo caso parliamo di una serie di 8 puntate di 1 ora, in cui ci sia il tempo necessario per sviluppare la trama del romanzo. Inoltre, dietro c'è una grande casa di produzione, Antena 3, c'è Diagonal TV, c'è la televisione catalana, c'è Netflix e ci sono ottime risorse economiche. ci sono grandi attori e soprattutto c'è un grandissimo entusiasmo per questo progetto. Credo che ci siano grandi professionisti del settore e quindi l'adattamento sarà fantastico e il prodotto meraviglioso. E che per lo tanto l'adattazione sarà fantastica, che avranno un prodotto meraviglioso. Nella Cattedrale del Mare abbiamo seguito un po' la vita di Arnau, di come lui da ragazzino ha poi cresciuto, si è dedicato alla costruzione della Cattedrale di Barcellona. In Gli Eredi della Terra seguiamo più che altro la vita, il percorso e la crescita di Ugo. A questo punto, fra 10 anni, ci dobbiamo aspettare un terzo volume con un altro ragazzino che magari sarà aiutato a crescere? Perché no? Potrebbe essere. De momento non me lo planteo. Perché no? Potrebbe essere. Al momento non ci sto pensando, ma non posso sicuramente escluderlo. Barcellona e l'epoca medievale sono uno straordinario polo d'attrazione per me e anche per i lettori, perché propone degli usi e dei costumi affascinanti, un paesaggio per noi inedito. E se dovessimo continuare a breve termine, ci troveremmo con la conquista di Napoli. Però al momento non ho alcun progetto. Ma chi lo sa? Non lo so, vedremo. Se fra 10 anni continuerò a fare lo scrittore, magari sì. Se dentro di 10 anni sigo scrivendo, pues igual sì. E questo era Edelfonso Falcones che ci ha parlato di Gli Eredi della Terra, pubblicato in Italia da Longanesi, sequel del bestseller La Cattedrale del Mare. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Antonio Manzini non è solo il suo personaggio seriale Rocco Schiavone, ma scrive anche altri romanzi. In particolar modo oggi parliamo di Orfani Bianchi, pubblicato da Chiare Lettere. Un romanzo che ho trovato veramente intenso, bello, commovente, a tratti anche straziante, ma soprattutto empatico, perché secondo me Antonio Manzini ha avuto la capacità di raccontare questa storia drammatica senza usare necessariamente toni forti, ma toni proprio realistici. Manzini, questa è la storia di una badante moldava che arriva in Italia per cercare di sbarcare il lunario, come si dice, ed è costretta a lasciare il figlio 12enne in patria. Come mai hai deciso di scrivere questo tipo di storia? Guardavo mia nonna che se ne stava andando, accompagnata da Maria, che era una ragazza rumena, e mi stavo chiedendo quanto costasse a Maria stare accanto a mia nonna, dal momento che pare che le famiglie italiane, la mia per prima, non ce la facciano a badare, a stare attenti ai propri cari, ai propri anziani. L'ho conosciuta e poi abbiamo chiacchierato. Per fortuna Maria ha una storia molto più leggera, molto più tranquilla e facile di quella del libro. Però ho continuato a farmi domande, a cercare, sono incappato negli Orfani Bianchi, che sono questo cortocircuito di una società capitalistica che ha distrutto altri paesi, sfruttandoli, fra l'altro anche umanamente. Gli Orfani Bianchi sono dei bambini lasciati negli internat, che sono degli orfanotrofi, ma hanno una madre e spesso anche un padre. Fra questi bambini c'è un'altissima percentuale di suicidi, circa mi pare il 25%, e raggiunta la maggiorità molti di loro invece si danno alla criminalità. È proprio una storia, come dicevo, straziante, perché tu fai capire il punto di vista di Mirta, questa donna moldava che veramente farebbe tutt'altro piuttosto che lasciare suo figlio, eppure è costretta a farlo. Tutti i personaggi italiani, diciamo, che vengono descritti in questo romanzo hanno sempre delle connotazioni negative. Per esempio, la prima famiglia nella quale lei appunto fa la badante, i figli arrivano e dicono: dobbiamo vendere la casa, ci servono i soldi, mi dispiace per te Mirta, sono 2 anni che stai con mamma e adesso finisce, ma tanto presto sarebbe morta, per te la cosa finiva lo stesso. Perché hai voluto mettere l'accento anche su questo cinismo e questa freddezza? Perché la mia sensazione è che guardiamo a queste persone come delle ombre, come delle macchie di colore, spesso non conosciamo neanche i loro nomi. E mi piaceva che ci fosse raccontare questo rapporto di sufficienza da una parte verso l'altra, quasi di dimenticanza, di disattenzione totale, sia verso i desideri e i bisogni umani, sia verso quelli economici. Nel libro c'è una che, siccome il suo giardiniere è filippino, lo chiama Filippo, perché non si può ricordare che si chiama Gerber Sinfronio, quindi lo chiama Filippo. Credo che soprattutto volevo parlare di famiglie italiane borghesi che hanno spesso e volentieri questo atteggiamento verso diciamo, il diverso, l'extracomunitario, ma soprattutto verso i più deboli in generale. Poi. Leggendo questo libro io ho avvertito proprio il senso a volte di disperazione di questa donna, di Mirta, perché lo possiamo dire anche perché accade abbastanza presto nel libro. Il figlio inizialmente rimane con la nonna, quindi con la mamma di Mirta, sì. Poi la nonna muore e quindi lei insomma deve appunto cercare di riorganizzarsi, perde il lavoro da badante, inizia a lavare le scale nei condomini. Tutta la sua vita è sempre segnata da una profonda solitudine e dalla disperazione. Cioè, a un certo punto lei dice: più che un uomo mi manca un'amica. Queste sono persone profondamente sole, non riescono neanche a creare una rete magari con gli altri connazionali. Ma in realtà ci riescono, però poi siccome il loro lavoro è precario, si spostano, quei piccoli rapporti che hanno creato con difficoltà, non hanno molto tempo a disposizione. Questi piccoli rapporti si distruggono, ma poi il fatto che uno appartenga allo stesso paese non necessariamente significa avere un'amicizia. Quanti italiani incontri all'estero che tu neanche vorresti, ci parleresti mai a Milano, però non possono diventare tuoi amici, l'amicizia è una cosa profonda, radicata. E quindi sì, sono vite piuttosto solitarie le loro, sono vite di persone che cercano di guadagnare, di arrivare alla fine del mese, mandare soprattutto i soldi a casa, non pensano ad altro, insomma. Secondo me tu sei riuscito a entrare perfettamente nella psicologia di Mirta, di questa donna, perché a un certo punto anche scrivi, perché lei si interroga su anche alcuni atteggiamenti che hanno gli italiani nei suoi confronti, fino a quando sarebbe stata colpevole per nascita, fino a quando avrebbe dovuto sentire i piedi della gente sulla faccia senza poterseli togliere di dosso, come se non avesse orgoglio. La fame te lo toglie, l'orgoglio, e ti toglie l'amor proprio e la dignità. Quindi insomma, veramente quando non si possono soddisfare i bisogni primari, si rinuncia anche a una parte di sé. Sì, assolutamente. Ci si dimentica di essere una donna, per esempio, avere occhi, naso, bocca, capelli. Che ci può essere anche una vita sentimentale, oltre a quella lavorativa. Sì, sì. Lei si emoziona quando riceve un bacio, per esempio? L'aveva dimenticato completamente, si era scordata che c'era anche questo. C'era l'amore, c'era qualcuno che poteva innamorarsi di lei. L'aveva messo nel dimenticatoio, lei dove è una bestia da soma, lavorare, portare le cose per suo figlio e basta, e si dimentica così di vivere, non solo lei ma anche tante come lei. Ho notato che in queste pagine spesso per descrivere gli ambienti e le atmosfere lo fai attraverso gli odori. Ci sono sempre odori molto pesanti, non so, l'ammoniaca quando deve lavare le scale, oppure nell'autobus l'odore proprio della gente, delle persone, l'odore che lei sente in questo orfanotrofio appena entra. È stata una scelta specifica? È una prerogativa che ho quando racconto, non mi piacciono gli spazi ciechi, mi piace che siano ben visibili su tutti i punti di vista, che il lettore possa sentirne proprio l'odore, che l'odore è quasi più importante del colore della carta da parati, che l'odore ti descrive molto di più l'ambiente di quanto le parole possano fare, spesso e volentieri. Se uno sente una puzza di brodo, già capisce dove si trovano, di ammoniaca. Una casa accogliente non puzza d'ammoniaca. Se tu senti l'ammoniaca e il brodo di dado, cioè già hai capito dove stai più o meno. Questo è un libro, dicevo, drammatico. Naturalmente non sveliamo il finale, perché comunque ogni lettore deve avere il piacere di arrivare alla fine del libro. Io ho trovato un finale bellissimo, che non avrebbe potuto essere altrimenti, insomma. Anche per il finale ti sei ispirato alla realtà o in questo caso, diciamo, hai dato libero spazio alla fantasia, che magari può essere anche verosimile? No, l'unica realtà è che siccome la vita fa le cose senza mettere le colonne sonore e né avvertirti, più o meno mi piaceva raccontare una cosa del genere. Ovviamente questo è un personaggio di fantasia, non esiste, la sua storia me la sono inventata, non so neanche, credo sì, può essere verosimile quello sicuramente, però. E così il finale era l'unico possibile per me, era questo, non ce n'erano altri. La storia, dall'inizio la storia porta lì, insomma, come un fiume che va al mare, non c'erano alternative, era questo. Come hai fatto proprio da scrittore a trovare le parole misurate ma nello stesso tempo incisive per raccontare il dramma di questa donna? Perché non ci sono, diciamo, scene da strapparsi i capelli, è come se lentamente il lettore si immedesimasse in Mirta e sentisse la sua disperazione. Non lo so, io so raccontare così, non so da dove venga. Non è stata una cosa studiata a tavolino? No, siccome mi annoia molto la retorica, mi annoia molto gli sbrodolamenti, il di più che non serve, tendo a stare, come dicevo, come era il brodo prima, un pochino all'osso, più all'osso possibile, cerco di buttare tutto quello che non somiglia al romanzo. Un'ultima domanda inevitabile però su Rocco Schiavone, visto le polemiche che ci sono state sulla fiction che è andata in onda su Rai 2. Io ho trovato le polemiche abbastanza surreali, in quanto personalmente trovo molto più pornografico alcuni programmi di cronaca del pomeriggio, sempre sulla Rai, oppure alcuni reality. Detto questo, che cos'è secondo te che ha scatenato tutta questa polemica? Il fatto che Rocco Schiavone si faccia le canne e quello che ha disturbato il fatto che lui sia comunque un vicequestore e quindi ha degli atteggiamenti controcorrente pur essendo nelle istituzioni? Non lo so, ma le dico la verità, non mi riguarda, non mi interessa. Io scrivo i libri, e li leggo e li scrivo, guardo i film, vado al cinema, cerco delle storie, dei bei personaggi, spero di emozionarmi e di riflettere quando leggo un libro, e di riflettere quando leggo un libro, e di riflettere quando leggo un libro. Però la fiction piace a te? A me piace la fiction, quella che fa riflettere anche, e non soltanto. Quindi diciamo non hai sentito il tuo personaggio in qualche modo trascinato in modo diverso? No, anche perché tu sei anche sceneggiatore TV, eccetera. La fiction è bellissima, è fatta proprio bene. Sono contento di Marco Giallini, sono felicissimo di Michele Suavi che ha fatto la regia. La sceneggiatura l'ho scritta con Maurizio Careddu. Siamo tutti e due molto contenti. A me piace quello che è venuto fuori. La fotografia è bella, gli attori sono bravi. Di più non cosa puoi desiderare. Ha fatto uno share spaventoso. Il Rai non è che me ne intenda tanto, ma mi hanno detto dei numeri. Sono contentissimo, sono molto molto molto felice, tutto qui, sono contento che Rocco sia arrivato fino a lì. Grazie ad Antonio Manzini, ora in libreria con Orfani Bianchi, pubblicato da Chiare Lettere, un libro struggente, intenso, commovente, secondo me raccontato con grande empatia, che veramente vi consiglio. E prima di chiudere, due segnalazioni su manifestazioni che riguardano i libri. Allora, a Roma, da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre, c'è la consueta fiera della piccola e media editoria, che si chiama Più Libri, Più Liberi. Si svolge al Palazzo dei Congressi all'EUR e sono presenti, insomma, le case editrici medie e piccole con i loro libri, insomma, le loro proposte. Ovviamente tanti gli incontri con scrittori e giornalisti. Ci sarà Antonio Manzini, che abbiamo appunto sentito poco fa, Andrea Camilleri, Henry De Luca, poi il grande romanziere e sceneggiatore Hanif Kureishi, Michela Murgia, Nanni Moretti, il fumettista Zero Calcare, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. E vi segnaliamo anche il Festival del Noir, che fino all'anno scorso si era tenuto a Courmayeur e che quest'anno invece si è trasferito fra Como e Milano. C'è una parte, quella dall'8 all'11 dicembre, che si svolge a Como, e quella dall'11 al 14 dicembre invece che si svolge a Milano. Naturalmente ci sono molti film del genere noir, ma ci sono anche i libri. E allora vi faccio un esempio. Ci sarà Roberto Saviano, al quale verrà assegnato il premio Raymond Chandler, ma poi insomma noiristi molto conosciuti da noi come Massimo Carlotto, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Matteo Strucul e anche Andrea Vitali. Per tutti questi festival, insomma, vi consiglio di cercarli direttamente sul web. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate tutte le puntate, anche quelle d'archivio, su podcast, quindi potete ascoltare Il Cacciatore di Libri quando meglio vi aggrada. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.